pensato di essere trattato come della Polonia. A tal proposito, appunto, Carson scriveva: niente fa supporre che Vichy abbia ottenuto posizioni significative del Reich, la cui politica era quella di affamare il paese. E chiude anche egli su con un bilancio morale, come dire, richiamando una crisi morale che era quella parlato Locke, parlando di una crisi di moralità collettiva. Dopo la pubblicazione del volume di Paxton sono stati indagati tutti gli ambiti di molta attenzione della società, ma come parte della città, ma anche di molta attenzione è stata data alla cultura, cinema, documentario, teatro, musicale, teatro, letteratura, l'economia, la scuola, l'origine di giovani, la propaganda, la repressione, la relazione. Vediamo, senza entrare nel merito, anche il peso che all'interno della ricerca storiografica, attraverso il percorso che si è fiancato dal dibattito pubblico, della ricostruzione delle persecuzioni contro gli ebrei, quindi richiamando da una parte la tensione del lungo periodo dell'antisemitismo francese nella promulgazione di questo statuto menzionato, tanto poi invece nella diciamo, ricostruzione del taglio delle misure per la protezione dei due persecutori e della deportazione. Termini che hanno acquisito, come è stato detto, una centralità interpretativa del testo. La rivoluzione paxtoniana, completata da un altro scritto, un altro volume scritto sempre da Paxton con Michael Marus, Vichy e gli ebrei, ha provocato una revisione totale, fine nei dettagli, della politica antisemita del regime francese durante l'occupazione. Ora, io mi astengo da fare un elenco con ogni più tempo delle pubblicazioni e né anche ho il tempo per affrontare in dettaglio la ricchezza di una fotografia molto ampia sul tema, per segnalare alcuni, diciamo, alcuni aspetti della strategia più recente mi sembrano significativi. Innanzitutto, mi scriveva appunto Elena, rispetto alle presentazioni che faceva anche con loro stamattina sull'articolazione geografica molto ricca che presenta la resistenza francese, mi pare che si possa ancora registrare una scarsa attenzione invece per la dimensione geografica, provinciale e periferica, del rapporto tra Vichy e diciamo, la sua provincia. Questo in realtà registra quindi una caratteristica in realtà, della storiografia francese che fa in qualche modo fatica a uscire da questa diciamo, lettura un po' della storia di Francia dalla sua praticata. E ancora in questi giorni, c'è un convegno che è stato sul regime di ma sembrano più delle occasioni, diciamo, che invece la possibilità di mettere in cantiere gli studi, diciamo, sulle amministrazioni locali durante gli anni che appunto una dimensione, quella appunto della situazione geografica che rimane. Più invece interessanti sono gli studi sui corpi professionali, sono gli studi sugli avvocati, magistrati, prefetti, e segnalo con me due lavori recenti, molto recenti, che vi hanno privilegiato un approccio, diciamo, che in qualche modo si fa una visione, a mio avviso, felice della storia francese dell'ambito contemporaneo, che è la socio, quella che chiamano in qualche modo dare una attenzione agli elementi sociologici attraverso un approccio storico e mi riferisco a un tentativo in qualche modo di costruire una microstoria della Shoah attraverso il lavoro di appunto questi giorni, Mario e Zach, che cerca di lavorare con diciamo, attraverso un'analisi in quantitativi sociologici sulla persecuzione di 991 ebrei di Lens, che è un gruppo nel pianeta, però in qualche modo qualche modo si può ravvisare una tendenza a una decontestualizzazione dei sci, nel senso che in alcuni casi la presenza dell'occupante è rimasta un po' sullo sfondo. Questa presenza dell'occupante, appunto, nell'incendio di questi anni, è stata rimessa in discussione dal volume di Philippe Romain, che è un suo pellegrino, che ha pubblicato sul metà degli anni 90, poi con un lavoro che poi ha elaborato negli anni successivi, un volume che si intitola appunto La Francia allora tedesca, allora che va di nome, per dire appunto che questo va in qualche modo tenuto presente, che queste vicende si sono, diciamo, risolte con la presenza in qualche modo, come dire, ha avuto un ruolo appunto che non si può trascurare. Quindi legge il periodo all'interno di questa storia, di una storia francese, rischia di sottovalutare aspetti di forte rottura che il governo di Pétain ha avuto rispetto alla tradizione repubblicana, in particolare della guerra, di condizioni della guerra della situazione. Chiudo su, appunto, questo punto, poi passo rapidamente al resto, con un altro libro recente di Debbie Lackerstein, una studiosa australiana, che discute il progetto di rigenerazione nazionale sotteso appunto alla GMTC. In fondo, e lo fa attraverso l'analisi di cinque categorie, che sono in qualche modo le parole d'ordine che troviamo appunto per tutta la storia di sci, tanto dal punto di vista della ideologia, queste sono appunto le idee, soprattutto quello che della politica, della politica vera e propria, decadenza, ordine, azione, realismo e nuovo mondo. L'aspetto, diciamo, su cui poi vorrei chiudere il volume, è che la periodizzazione proposta da Lackerstein è quella non più del 40-44, ma 1903-1944. In qualche modo questo volume può rappresentare un'ottima sintesi diciamo, dello stato. E l'autrice mostra e argomenta in modo convincente che appunto le categorie, il progetto di rigenerazione nazionale furono alla fine solo parole di mera e propaganda per le condizioni in cui Vichy si trovò ad operare nel contesto dell'occupazione nazista. Il secondo punto, ma parlo molto rapidamente, ho solo il tempo di accennarlo, è quello appunto se Vichy può essere definita in qualche modo, l'esperienza di Vichy può essere definita come un fascista, diciamo, un'origine fascista, e l'esperienza di Vichy è stata a lungo legata a questo dato assai controverso sull'esistenza e carattere del cinema francese. Un dibattito che venne avviato con la pubblicazione di libri dello storico italiano Zeno Stiernel, in particolare quello che parlava in Grecia, il quarto inconscio di destra e di sinistra, ma anche quello precedente in cui lo storico israeliano in qualche modo argomentava sulle origini francesi del fascismo a fine dell'Ottocento, e rintracciava i movimenti di nazionalismo integrale, appunto, fortemente autoritari, anche repubblicani, che nascono appunto critici si sono confrontati in modo molto aspro negli ultimi decenni, soprattutto penso a due posizioni di due posizioni di scuola molto che hanno avuto degli scontri, delle discussioni molto anche violente tra la scuola di Armea e Raimondi, e penso al gruppo di Michel Aubry che ha pubblicato un volume su questo mito dell'ideologia della Francia al fascismo, cioè un gruppo di storici anglosassoni che invece ritengono che il fascismo, che si possa parlare di fascismo francese, e alcuni essi ritengono che la stessa esperienza di Vichy possa essere ascritta all'esperienza di, appunto, del fascismo, in qualche modo possa trovare possa essere inserita appunto in questa categoria. Non posso appunto entrare in questo dibattito, però mi interessa in qualche modo richiamare che tutti a meno sono concordi nel riconoscere alcune nebulose politiche culturali che in Francia furono oggetto di impregnazione fascista, questa è una definizione che viene in qualche modo condivisa. E l'analisi di questa nebulosa, il Partito Popolare di Unione, fascista, il Consiglio di Educare, le figure degli intellettuali fascisti che ho citato, permette di costruire la via nazionale del fascismo in Francia e in particolare le ragioni della sua nascita, le funzioni, i progetti di trasformazione della società. E anche qui è opportuno legare il periodo degli anni 30 con quello di Vichy. Certamente in qualche modo la discussione sul fascismo francese ha arricchito la discussione sul fascismo come fenomeno europeo. E senz'altro, appunto, in questo caso le continuità con la guerra sono utilissime. Lo aveva rimarcato, e mi piace citarlo, lo stesso Jaime Pintore nel 43, pensando all'Europa, quando aveva annotato sui collaborazionisti francesi, cito: non si può dire che in complesso si tratti di un fenomeno imprevedibile, né di forze nuove venute ora a mutazione. Sono piuttosto voci della vecchia Francia che si perderono tempo nel confuso clamore della Terza Repubblica e per essere ora le sole autorizzate, quelle che corrispondono alla congiuntura politica, hanno preso un tono più alto e si impongono all'attenzione del pubblico. Quindi, in qualche modo, l'indagine delle matrici culturali questa ideologia, come vedete, di Chipari è meno dicotomica di quella che a lungo è stata ritenuta, si possono rintracciare nella storia della Francia degli ultimi anni, della Terza Repubblica, dell'ultimo almeno decennio, perché l'esperienza della Prima Guerra Mondiale, la volontà di giungere a un riavvicinamento franco-tedesco, appunto, nel dopoguerra, certamente stimolando la crescita dell'arcello pacifismo negli ambienti di estrema destra, si trasformò durante l'occupazione in una volontà di stabilire accordi alla pari con la Germania nazista, e questo sì fu un progetto illusorio, e partecipare alla definizione dell'assetto europeo, in cui la Francia avrebbe potuto rivestire un ruolo più piano. La sconfitta della Francia, quindi quella dell'estate del 40, fu interpretata tanto dagli uomini di Chipre, quella dei collaborazionisti francesi, come la possibilità di rompere con il passato repubblicano e di instaurare un regime che aveva nella Germania nazista il suo modello. E l'affermazione dell'autonomia, questa del fascismo nazionalismo francese, divenne in realtà paradossale, perché la società fu oggetto di trasformazione in senso fascista solo in presenza dell'occupante e proprio in nome dell'interesse nazionale. E quindi in nome di questo interesse nazionale, la collaborazione di Stato, il collaborazionismo, mantennero una volontà di collaborazione fino alla fine dell'esistenza del regime, fino alla diciamo, si ravvive possibile rintracciare quel processo di radicalizzazione nella lesione alla collaborazione con l'occupante, nonostante l'aggravamento, diciamo, nonostante che nel corso del 43 la certezza della vittoria nazista veniva o meno, e nonostante l'aggravamento delle condizioni di vita dei francesi, dal 1943 i principali università francesi vivono appunto, sono oggetto di bombardamenti, di condizioni di vita assolutamente molto dure, ma fino appunto al 1944 non c'è nessun dire, tentativo di, in qualche modo da parte di Vichy e di collaborazione francese di sottrarsi a questa adesione appunto al regime. Fino in fondo è possibile rintracciare appunto nei programmi, decisioni politiche, la scelta della collaborazione, anche quando ormai la vittoria della Germania non è più sicura, sembra ormai improbabile, perché non c'è idea di futuro alternativo. E quella dicotomia che in qualche modo si costruisce tra, che sembra in qualche modo formarsi tra Vichy e tra Vichy come diciamo, regime meno radicale di lavorazione e il francese più radicale, in realtà si compone materialmente quando sia il presidente del governo di collaborazionisti si ritrovano a sparire, vengono appunto, fuggono da radicale quando arrivano diciamo, dopo le battaglie degli alleati e si rifugiano in questo castello che diventa una vera e propria diciamo, roccaforte anche simbolica di questa decisione. Chiudo solo con una notazione, perché ho lasciato un discorso sospeso, sulle origini repubblicane di Vichy. È il titolo di un saggio molto controverso, ma anche molto interessante, stimolante, di Gérard Lavallière, che viene pubblicato nel 1999. Questo che sta a segnalare è che una parte della storiografia francese, come dicevo, si è a lungo interrogata su questi antecedenti, in qualche modo, solo culturali, politici, che costituiscono questa via nazionale, la Vichy al fascismo francese. Come appunto la realizzazione di questo ultimo volume che vi citavo, che ormai è data Vichy dal 1930 al 1944. Senza dubbio diciamo, l'inclusione cioè l'interesse del decennio, dell'ultimo decennio della Repubblica è diciamo, discutibile, io stesso ho dedicato molti anni di ricerca a studiare gli anni 30, però la proposizione, secondo me, senza soluzione di continuità, non mi pare di tutto condivisibile. Beh, appunto perché se appunto è necessario in qualche modo sottolineare questi elementi di crisi, bisogna sottolineare anche gli elementi di forte discontinuità, il contesto di guerra, il crollo morale che appunto vive la Francia con la sconfitta. Istanze e matrici culturali che preesistono, ma che sono marginali e che rischiano in qualche modo di offuscare la grande esperienza dei fronti popolari, invece molto, molto volentieri. Grazie. Benedetto giù di qua, ti aspetto qua. Thank you. per la Germania. Spagna che fanno il portale riconobbero la RSI. Sia il Foreign Office sia il Partito di Stato americano non considerarono la Repubblica Sociale Italiana una controparte politica. Pochissimi rapporti menzionarono la Repubblica Sociale Italiana e soltanto nell'ambito di temi più ampi, quali l'occupazione dell'Italia o il problema per esempio della Venezia Libia. Se i servizi segreti, sia britannici sia statunitensi, si occuparono di creare alcune reti di contatto con personalità rappresentative oppure con alcuni vertici militari della RSI, non so, come con Borghese, con il Federazione della Decima Mass, il principe Pignatelli, in parte per agevolare la comunicazione militare alleata, ma soprattutto per un progetto che guardava già al dopoguerra, nell'intenzione di creare una rete di contatti di sicura fede, diciamo, anticomunista. E, analogamente, sia la stampa britannica che la stampa degli Stati Uniti testimoniano questo sostanziale disinteresse rispetto alla RSI. Dal punto di vista invece dei tedeschi e degli italiani, naturalmente le considerazioni sono differenti. Per quanto riguarda i tedeschi, la RSI, la Repubblica Sociale, ebbe una funzione senza dubbio subalterna, ma subordinata, ma appunto perché strumentale, utile, perlomeno potenzialmente utile, rispetto alla Germania in una fase critica del conflitto. E questo sia sul piano internazionale sia sul piano che possiamo definire l'economia di guerra. Sul piano internazionale, come aveva ricordato questa mattina Thomas Schlemmer, giovava al prestigio dell'asse che quello che era il principale alleato della Germania in Europa rimanesse almeno diciamo, nominalmente ancora sulla scena politica, ma inoltre mantenere l'asse, mantenere dire, questa figura nell'Italia fascista era anche funzionale ad assicurare il Giappone che subito si era preoccupato per l'uscita dell'Italia dal conflitto e soprattutto scoraggiare la protezione da parte degli alleati non in primis l'Ungheria. Vi erano poi ragioni dicevo, di carattere invece economico e militare. In un momento come appare il 1943 critico per la Germania e in cui la Wehrmacht doveva sostituire con le proprie forze le unità militari che erano state dislocate su vari fronti di guerra, allora poter disporre di un governo formalmente, nominalmente sovrano, che consentisse il funzionamento dell'amministrazione statale, dell'apparato amministrativo, che mantenesse l'ordine pubblico, che agevolasse anche lo sfruttamento economico della parte d'Italia che era sotto l'occupazione tedesca, costituiva insomma, un elemento sicuramente importante in una fase appunto critica del conflitto e consentiva di risparmiare le forze, le unità militari e civili di occupazione tedesche in Italia. Ed è significativo a questo riguardo come il progetto che Hitler delinea per l'occupazione e l'organizzazione dell'Italia sotto l'Italia centro-settentrionale comprendesse già tanto un regime di fascista e come questa, questo progetto di struttura dell'Italia fosse stato delineato con la nota ordinanza segreta del 10 settembre, quindi prima della liberazione di Mussolini. Un'organizzazione che, come sappiamo, rimase in vigore entro queste linee anche dopo la liberazione di Mussolini. Quindi è evidente da un lato l'interesse tedesco per una struttura fascista, diciamo collaborazionista, e nel contempo anche come da parte tedesca non ci fosse alcun piano operativo volto a distruggere l'Italia, per evitare quello che era appunto considerato il tradimento dell'Italia, in quanto sarebbero state comunque misure che si sarebbero ritorte innanzitutto contro la Germania, indebolendo quello che era il retrofronte in Italia. Se poi invece passiamo al versante italiano, che sono i fini e gli effetti della scelta di Mussolini, ecco, le valutazioni sono ancora naturalmente ancora differenti. Partirei dagli effetti, ecco, dalle conseguenze. Ecco, indubbiamente la scelta di Mussolini di porsi a capo della una nuova di un governo della Repubblica di Salò, di un nuovo Stato fascista, ebbe delle ripercussioni profonde sul tessuto sociale e sugli equilibri in Italia. Ecco, non soltanto perché è alla Repubblica di Salò che si deve imputare nella sorge di due entità statuali tra loro contrapposte che si contendevano il monopolio del potere legittimo sul territorio nazionale e sulla nazione. Ma direi soprattutto perché è a questa scelta, a questa fondazione che va attribuito allo scoppio della guerra civile in Italia, nella contrapposizione fra aderenti e avversari della RSI, nella scelta che era appunto obbligata per quanti, perlomeno per quanti si trovavano appunto all'interno dell'area della politica sociale italiana. Lacerazioni poi che hanno avuto anche delle profonde ripercussioni nella stessa cultura politica e ideologica all'indomani della fine della guerra. Ora, a fronte di queste conseguenze innegabili e dal punto di vista di Mussolini anche prevedibili, è quindi diciamo opportuno riflettere sulle ragioni che indussero Mussolini comunque ad accettare diciamo la proposta di Hitler. E questo diciamo tanto più opportuno in quanto, come è noto, la memoria fisica fascista ha diffuso una sua interpretazione della scelta di Mussolini, divulgando la tesi del sacrificio, secondo la quale Mussolini, liberato dalla prigionia, non avrebbe voluto tornare sul lavoro politico, ma piuttosto ritirarsi in vita privata. Ma diciamo si era sacrificato e aveva accettato di fosse capo della RSI perché minacciato da Hitler e il quale se lui appunto avesse rifiutato avrebbe scatenato contro l'Italia le famose armi segrete e avrebbe ridotto l'Italia a livello della Polonia. Questa tesi che naturalmente tende a giustificare la scelta di Mussolini e nel contempo a offrire l'immagine Repubblica sociale come Repubblica necessaria e quindi come scudo nei confronti del futuro Teutonicus, ecco, è non soltanto si è diffusa, diciamo, nel sentire comune nella pubblicità, ma in realtà è approdata anche in alcune insomma, accreditate opere storiografiche. E quindi diciamo, è molto insomma, è necessario diciamo, fare luce sulle radici e sulle basi di questa tesi. Anche perché se noi confrontiamo le fonti tedesche, le fonti italiane, e anche se esaminiamo con attenzione le radici di questa stessa tesi nella memoria artistica, ecco, osserviamo come la tesi non sia sostenibile, sia venga smentita da questa serie articolata di riferimenti. Ecco, innanzitutto, come appunto detto prima, già il Reich aveva operato concretamente verso la costruzione di un governo fascista, non soltanto nel progetto dell'ordinanza, ma come noto già nella notte tra l'8 e il 9 settembre era stato annunciato il domani dell'armistizio, era stata annunciata da Radio Monaco la nascita di un governo nazionale fascista che operava in nome di Mussolini. Ma Mussolini anche era venuto a conoscenza di queste scelte del Reich quando operato da Gran Sasso era stato a Monaco prima di raggiungere il Führer quartier generale e qui aveva appunto appreso attraverso la radio attraverso i colloqui di quelle che erano state appunto le mosse anche. Ma oltre a questo riguardo all'incontro a Rastenburg al quartier generale del Führer dove appunto si sarebbe svolto questo drammatico colloquio fra Mussolini atterrito, prostrato, depresso e un Hitler invece vendicativo e minaccioso. Ecco, se utilizziamo le varie fonti, non moltissime in realtà, insomma le fonti che possiamo disporre riguardo a questo incontro, ecco, queste delineano piuttosto un quadro abbastanza diverso, quindi io mi riferisco sia di Goebbels, alle memorie di Scorsese, ma anche alcuni documenti, telegrammi del telegramma dello Staff di Hitler, la relazione dell'ufficiale medico che accompagnò Mussolini e da parte italiana che non è anche Vittorio Mussolini. Anche. Ecco, l'immagine qua che noi possiamo trarre è quello in realtà di un incontro che si svolse in un clima sostanziale, come dire, serenità. C'è una serie di colloqui, Mussolini si mise subito al lavoro dopo l'incontro con Hitler e effettivamente, come sappiamo, già l'indomani dell'incontro emanava i famosi 5 ordini del giorno con cui appunto poneva le basi del nuovo Stato e al riguardo Goebbels, che non era fatto bene, diciamo, annotava come Mussolini avesse ripreso diciamo, l'antico spirito guerriero e insomma anche la risolutezza, la decisione, il piglio con cui Mussolini riprese le redini diciamo, del potere non depongono a favore insomma, di Mussolini ricattato. Sarebbe peraltro anche diciamo, difficile pensare quando era già a conoscenza delle linee operative che i vari si era dato. E se poi noi passiamo all'esame della memoria artistica, ecco, le varie opere che divulgano insomma la tesi del sacrificio hanno sostanzialmente come fonte la testimonianza posteriore di Carlo Silvani. Silvestri. Carlo Silvestri, un giornalista che da sua posizione antifasciste, socialiste, si era poi diciamo convertito in una sorta di Mussolinismo, non so se pensi, esatto, e anzi insomma quasi una sorta di idolatria nei confronti di Mussolini. E Carlo Silvestri pubblica nel 1948, nel 1949 due opere memorialistiche contro la vendetta di Mussolini, Graziani e l'antifascismo, tra l'altro questa che doveva fungere diciamo, da base per la sua testimonianza nell'ambito del processo a Graziani. In queste due opere sostiene di aver ricevuto la testimonianza contemporaneamente da Mussolini e da un ufficiale tedesco delle SS di questo appunto questo ricatto, questa minaccia a cui facevo riferimento prima. Ecco, si tratta diciamo di non soltanto di un test come dire, abbastanza inattendibile e riguardo al quale anche lo stesso Canali rispetto ad un'altra sua testimonianza aveva appuntamente posto in luce numerose contraddizioni, ma è per giunta dire, poco credibile che Silvestri avesse potuto ricevere queste confessioni diciamo, da parte di un ufficiale dell'SS durante un interrogatorio al quale lo stesso Silvestri nel carcere di San Vittore è stato sottoposto perché accusato di aver partecipato a un attentato contro i tedeschi. Oltre a ciò si aggiunga che il testo dell'intervista, di questo incontro con Mussolini che egli appunto aveva avuto durante la Repubblica Sociale Italiana non c'è tra le carte di Silvestri che sono conservate presso il fondo Sussmel all'Archivio Centrale dello Stato. Ci sono gli appunti di molti altri incontri, ma manca appunto questo. C'è anche una sorta di spiegazione per cui sarebbe stato scritto una storiografia speciale diversa dagli altri, mentre tutti gli altri incontri erano scritti in una come dire, con caratteri normali. Quindi questi vari elementi ci portano dire, a dubitare della veridicità di questa fonte. E si aggiunga che lo stesso Sussmel, il curatore dell'opera Omnia di Mussolini, divulga questa testimonianza di Carlo Silvestri nel 1960 a puntate però su oggi, ma poi non la pubblica, non la ripubblica quando pure invece anche l'ultima parte diciamo, dell'opera di Mussolini che riguarda il periodo della Repubblica Sociale Italiana, evidentemente nutrendo a sua volta insomma, dei dubbi su, rispetto a questa e quindi la tesi come dire, del sacrificio sembra piuttosto un mito costruito sulla base di un documento di fatto falsificato che però è funzionale a stagionare come dire, Mussolini da quelle che sono state le gravissime conseguenze della scelta a fare una figura appunto, sacrificale disposta a sacrificarsi per la patria e nel contempo a dare un senso diciamo alla RSI come appunto baluardo nei confronti delle vecchie. In realtà Mussolini non voleva rinunciare a quella che in fondo era un'occasione unica che la sorte di sperare che la sorte gli offriva per di poter ritornare sul lavoro politico. Certo, vive in condizioni assai tragiche, in un contesto difficile, con una sproporzione di mezzi, però nel contempo anche senza quelle che erano le pastoie che a suo dire avevano come dire, reso difficile il suo progetto di avvio e di affermazione del fascismo, quindi innanzitutto la monarchia, la chiesa, i centri politici, la classe politica. Ma rinunciare in qualche modo avrebbe significato abdicare a noi. forte volontà di vendicarsi della monarchia e avrebbe significato in sostanza rinnegare proprio la propria opera, la propria storia e accettando, ammettendo anche soprattutto il proprio fallimento. Aggiungiamo che dal punto di vista di Mussolini la guerra non era necessariamente perduta e tra l'altro, insomma, come sottolineava anche prima il professor Overi, in fondo fino al 1945 la guerra non era inevitabile, quindi diciamo non anche nel 1943 a maggior ragione si poteva ancora da parte tedesca e da parte di Mussolini coltivare appunto, delle speranze, perché in particolare Mussolini aveva una grande fiducia nelle appunto, presunte nuove armi segrete del Reich. E d'altronde nel contempo l'alternativa qual era? Mussolini sapeva delle clausole di un armistizio che prevedevano la consegna alle Nazioni Unite, lui stesso aveva espresso la volontà di intenzione di suicidarsi nel caso in cui fosse stato consegnato agli alleati e quindi, come dire, riprendere il legame con Hitler era la scelta per lui più naturale, anche per, diciamo, per l'affinità politica e ideologica rispetto al Führer. E quindi quella di Mussolini rappresenta in realtà una scelta di campo, radicale, basata su ragioni di affinità politica e ideologica, che si iscrive in una linea di continuità, ma nel contempo di radicalizzazione rispetto al fascismo del ventennio, in un processo di identificazione con quello che è che era il nuovo ordine europeo nazista. A questo riguardo appunto vorrei fare alcune osservazioni. Diciamo questa radicalizzazione, la radicalizzazione si registra sia a livello di prospettive, quindi di lungo periodo che Mussolini e quindi il gruppo dirigente della RSI elaborano, sia anche poi nella politica concreta, in particolare la politica repressiva della RSI. Sul piano delle prospettive, già il fascismo aveva a più riprese sviluppato alcuni progetti di nuovo ordine, spesso anche in concorrenza, come dire, con il nuovo ordine nazista. Faccio dei rapidi riferimenti, nel congresso Volta appunto nel 32 e poi successivamente alla vigilia del conflitto e anche nei primi mesi del 43, questo soprattutto attraverso le proposte di Bastianini. Il filo un po' di queste riflessioni aveva compreso sia la proposta di aree di influenza che riciclo, ma delimitazione di aree di futuro nuovo ordine tra Germania e Italia, aveva poi soprattutto nei primi anni del conflitto insistito sul primato, sul presunto primato spirituale dell'Italia che ha dovuto avere nel nuovo ordine e ancora infine diciamo nei primi anni del 43 con appunto quando Bastianini era stato sostituito il segretario dell'Est e appunto già c'erano i segnali di una crisi che coinvolgeva non soltanto l'Italia diciamo ma anche la Germania dal punto di vista insomma, degli esiti militari era stata avanzata la proposta di una cosiddetta Europa delle Nazioni nell'ambito della richiesta di una carta dell'Europa e anche si era iniziato a parlare di un principio come dire di libertà. Ecco, con la RSI si sviluppa una nuova prosegue diciamo la riflessione sul nuovo ordine europeo, sulla nuova Europa, in termini però molto diversi rispetto a queste prospettive precedenti, appunto in cui si osserva questa radicalizzazione, questo avvicinamento al nuovo ordine diciamo, e poi dallo stesso manifesto di Verona, ecco, è un'Europa ora sovranazionale, perché si dice le nazioni non hanno più alcun peso. È un'Europa gerarchica, ma naturalmente lo era anche l'Europa negli anni precedenti, però non c'è più quella distinzione, si appanna una distinzione fra l'elemento germanico e l'elemento italiano. L'Europa, la nuova Europa, si fonderà sul principio di non meglio definita giustizia, la giustizia però applicata dagli uomini di coraggio, e esplicitamente si dice non è un'Europa che si fondi sul principio di libertà, perché la libertà non interessa ai popoli. Il nucleo autentico dell'Europa è indicato nella simbiosi, diciamo, dell'elemento italiano e tedesco, dove naturalmente per italiano si intende fascista, insomma l'italiano viene ad essere a coincidere esattamente con l'Italia fascista, e questo nucleo viene proposto come l'elemento autentico e primigenio della civiltà europea, in contrapposizione da un lato all'occidismo e dall'altro anche alla democrazia giudaico-massonica, brutto giudaico-massonica. Ecco, due concezioni, due anti-europee perché estranee all'Europa, e con, diciamo, un uso, come dire, piuttosto così, disinvolto della storia recente, si afferma che si tratta queste due concezioni chiare, insomma, sono di guerra contro l'Europa, appunto per la loro matrice anti-europea. Quindi la guerra viene ad essere presentata come una guerra di civiltà, una guerra per la difesa della civiltà europea. In questa guerra l'Italia fascista deve prendere a modello la Germania e per lottare contro questi che vengono definiti nuovi barbari, deve diventare una grande caserma invincibile in armi per difendere non tanto se stessa, ma per difendere l'Europa. L'Europa trovata, restituita a se stessa alla fine del conflitto, sarà un'Europa in cui l'elemento giudaico, si dice, cadrà come pelle secca, perché in realtà il giudaismo è sintomo del male dell'Europa, per cui una volta che l'Europa avrà eliminato questi elementi estranei, anche il giudaismo, l'ebraismo verrà superato. Ecco, al di là della fumosità, del nazionalismo, di queste riflessioni, tuttavia la radicalizzazione che queste sottendono ha anche delle ripercussioni, diciamo, più operative nella Repubblica Sociale Italiana e in particolare nell'intera politica repressiva, e quindi delle ricadute immediate, e faccio semplicemente riferimento, innanzitutto fin dai primi mesi, insomma, poi questo processo diventa più serrato a partire dal 44, ma dire che lo si individua fin dall'inizio, beh, già con il processo di Verona pena prevista era pena di morte, nella legislazione contro i disertori, anche qui in cui è prevista la condanna a morte, che non era invece contemplata neppure dai codici militari di guerra. È una radicalizzazione che si riflette anche nella concezione del partito, e quindi poi anche nella riorganizzazione del partito fascista repubblicano nel 44, con la nascita del Brigate Nere. Il partito inteso come ordine di combattenti e credenti, con una forte analogia rispetto alla concezione nazionalsocialista, diciamo, nella ripartizione tra partito Arbeitsfront, fronte del lavoro, e popolo, diciamo, nazionalsocialista, popolo tedesco. comuni alla persecuzione contro gli ebrei che a partire dal manifesto di Verona sono definiti razza straniera e nemica e che si traduce nel, come è noto, nel rastrellamento, quindi poi nella deportazione degli ebrei anche italiani, come sapete, fino allora erano stati esclusi dalla deportazione. Ecco, tutta una serie, tra l'altro, di misure che sono prese autonomamente dalla RSI e che quindi testimoniano, che mentre quindi attestano questa radicalizzazione della sua politica, testimoniano anche l'assoluta responsabilità della RSI, debole nei confronti dei tedeschi, ma assolutamente decisa nella repressione degli elementi tenuti estranei, quindi agli antifascisti. Questa adesione quindi incondizionata a una prospettiva di nuovo ordine interno di cui è concepita dal nazismo, però non incide in realtà nei piani della nazionalsocialista. La Germania nazista, la nuova Europa rimane comunque una comunità europea sotto il dominio esclusivo germanico, in cui l'influsso tedesco deve essere, lo cito anche dallo stesso Goebbels, l'influsso tedesco deve essere esclusivo sia nel settore economico, dovrà essere esclusivo tanto nel settore economico che nel settore razziale. E Goebbels, in un articolo su Reich, precisava appunto che il nuovo ordine ha i propri germi nel Reich e il popolo tedesco ne è il suo unico promotore e custode. Ecco, viceversa, il popolo italiano annotava osservava un rapporto dell'Einsatzstab di Rosenberg, del gruppo operativo di Rosenberg, un rapporto del febbraio del 1945, dedicato, insomma abbastanza interessante, dedicato alla concezione degli italiani sul pensiero dell'unità europea. Ecco, questo documento si diceva un'analisi di quanto si era scritto e discusso nell'RSI rispetto all'Europa, si diceva che comunque il popolo italiano non ha una mentalità né europea né tantomeno imperiale. Ancora come dire direttamente, diciamo ancora più esplicitamente, Goebbels nel suo diario notava per la loro lealtà e per il loro tradimento gli italiani hanno perso ogni diritto allo Stato nazionale moderno, dovranno essere puniti nel modo più duro. Ecco, questa è una nota, conosciuta nota di Goebbels all'indomani dell'armistizio, però ancora nell'aprile del 44, 18 aprile, alla vigilia dell'incontro tra Hitler e Mussolini, comunque scriveva: gli italiani dovranno pagarla a caro prezzo quando avremo più. Quindi da parte del Reich questa radicalizzazione in sostanza era utile, ma non sempre, nemmeno sempre nel controllo del territorio italiano, ma non avvicinava, diciamo, le prospettive in un'Europa futura. E d'altro canto era la politica stessa del Reich nei confronti della RSI, era un segno eloquente di quello che era lo status a cui la Germania relegava il proprio alleato, che era appunto costretto a governare sotto un territorio sottoposto contemporaneamente all'occupazione militare tedesca e che era anche estromesso da parte del territorio nazionale, che faccio naturalmente riferimento alla zona di operazione, alla questione drammatica, insomma, delle zone di operazione, e che peraltro fu un elemento di frequente tensione fra la RSI e il Reich. Non di meno, mi avvio a concludere, nonostante le tensioni, nonostante la loro, diciamo, la percezione proprio fallimento, Mussolini, il governo dell'RSI ribadirono fino all'ultimo la loro incondizionata fedeltà a Reich e a Hitler, e quindi l'adesione al nuovo ordine europeo nazista. Il 21 aprile del 1945, nel Consiglio dei Ministri che si svolse per la prima e l'ultima volta a Milano, Mussolini ancora dichiarava che non tutto era perduto. Cito questo passo perché non riuscirei a renderlo con altrettanta efficacia. Allora, la guerra come tale non finirà in ogni modo, siamo appunto in virtù da fine del 45. Non ci sarà armistizio. Oltre alla resistenza passiva delle popolazioni germaniche, ci sarà in tutti i territori una piccola guerra fatta dagli internati. Ci sarà il ridotto bavarese, il ridotto alpino, il ridotto in Valtellina. Ossia, sostanzialmente, la guerra continuerà. È un grande dramma che non ha 5 atti, ma può averne 6, 7 o 8. Allora, mi sembra, diciamo, una testimonianza e sconcertante di quei, diciamo, a 4 giorni della liberazione, del velleitarismo e dell'irrazionalismo, dell'incapacità di guardare lucidamente al contesto politico e militare, l'incapacità di accettare la sconfitta, che contrassegnavano Mussolini e il gruppo dirigente di Salò. Ma furono questo irrazionalismo e il radicalismo estremo che fecero sì che la Repubblica Sociale Italiana, lungi dall'essere uno scudo nei confronti del Reich, contribuisse, uno scudo per l'Italia nei confronti del Reich, viceversa contribuisse a lacerare profondamente il tessuto sociale in Italia, e contemporaneamente si rendesse complice, consapevole e per volontà della politica di sterminio attuata dal Reich, col concorso zelante al rastrellamento e alla deportazione degli ebrei. Grazie. Grazie a Monica Fioravanzo, giuro che non avevo che ho cercato di digradarla, sono davvero grato a tutti i relatori. Io sono un po' sommerso dagli appunti, non è semplice trarne indicazioni univoche, mi pare di cogliere un aspetto abbastanza importante, diciamo, del brief della discussione. Ci sono stati, vado a cogliere anche qualcosa che si è detto questa mattina, mi pare che ci sia un'indicazione importante che emerge, non in modo forse del tutto esplicito, vediamo se si può rendere esplicito. Si guarda molto agli anni 30, cioè da vari punti di vista si cerca in qualche modo una spiegazione su un periodo un po' più lungo, un po' più ampio, sia solo quello delle dinamiche della guerra. E si va, nel caso italiano, forse un po' meno, ma senz'altro in quello francese, in quello tedesco, senz'altro, ma forse anche in quello inglese, anche un po' anche americano, cioè tutti i paesi coinvolti della guerra emergono da un decennio di violentissime fratture culturali. Che li accompagnano durante la guerra e poi se vengono, come dire, offerte al dopoguerra, sopravvivono. A me mi ha fatto venire in mente queste cose, mi ha fatto venire in mente per esempio il diario di prigionia di Brodelli, di cui sì, sembra una notazione quasi di colore. Brodelli, che aveva ricevuto i favori di un comandante del campo che parteggiava per i suoi studi e che gli aveva offerto la possibilità di visitare la biblioteca, eccetera. E Brodelli invece preferisce preferisce essere trasferito in un campo dove però esistono, dove sono alloggiati solo gli, diciamo, irriducibili antitedeschi, per non dover essere più sottoposto a questi inenarrabili conflitti e discussioni tra francesi di destra e di sinistra. E mi ha ricordato quanto diceva oggi il professor Collotti sul fronte popolare, vissuto come un incubo dalla destra francese, mi pare che abbia usato proprio questa espressione, e che molto spiega anche la strana disfatta. Quindi questi anni 30 emergono sullo sfondo come appunto il proiettore che lancia questa luce così tagliata, così conflittuale sugli anni anche della guerra e di come è stata vissuta la guerra nel caso dei governi collaborazionisti. Per quanto riguarda però la questione della guerra, non c'erano dubbi, il professor Overi credo ci ha fatto un ritratto abbastanza direi affascinante, ci ha dimostrato come appunto la storia militare avrebbe fatta sia esattamente il contrario di questa battaglia, cioè che è intrisa di una serie di problematiche estremamente ricche che vanno dalla psicologia dei combattenti, sia i leader che i soldati, alle questioni di carattere economico, infatti si chiamavano strutturali che entrano dentro il gioco, alle alternative soprattutto, perché i vari contendenti avevano. E ci sono alcune cose che mi colpiscono. Una, vorrei fare una domanda provocatoria. Forse si sottovaluta l'importanza dell'Italia come alleato degli alleati, nel senso che l'Italia trascina la Germania nei Balcani, in Grecia, in Albania, in Africa, in una condizione dove i tedeschi non volevano entrare. Quindi paradossalmente le sconfitte italiane sono state, non so se sia mai stato calcolato in termini di divisioni che sono state spostate in una Germania che cominciava a subire i contraccolpi della sconfitta in Unione Sovietica, quanto l'Italia in fondo è indebolito involontariamente il fronte tedesco. E per quanto riguarda il fronte orientale invece, anche qui penso a Kirchhoff, insomma agli studi sulla comparazione tra stalinismo e nazismo, si apre anche qui uno scorcio che rischia quasi di affacciarsi su problemi della psicologia dei dittatori, però sembrerebbe che comunque dei dittatori, cioè pare da quanto ho sentito che Hitler commette un errore che Stalin non commette. Hitler commette l'errore di credersi grande stratega, e mi pare di capire che uno dei problemi cruciali sia la tripartizione dell'offensiva dell'Unione Sovietica. Io lì vedrei una svolta assolutamente decisiva, nel senso che il fatto di non essersi rivolti, è inutile che noi andiamo a pensare che cosa abbiamo fatto al posto di Hitler, però il fatto di non rivolgersi, come dire, in modo univoco a Baku, al petrolio, insomma, ai disturbi tra Leningrado e Mosca, a me pare, ma non è appunto inventare, non so, quelli che vanno a bar pensano di dire cosa deve fare l'allenatore della nazionale, ovvero il calcio, però mi pare che questo sia stato un errore strategico. Meno male, Stalin tira fuori dal gulag, tira fuori i suoi generali e cerca quelli che sono sopravvissuti e cerca di metterli al lavoro. E lì forse mi parrebbe una divisione importante. L'altra questione molto importante riguarda quanto abbia pesato la tecnologia. Lei ha fatto degli accenni, però anche qui si dimostra come nel 43 probabilmente, per quanto incredibile sia stata, grazie a tanti elementi, l'inseguimento produttivo e tecnologico tedesco, però se nel 42-43 si è creato uno stagnante. cammino che non è più risolvibile. Ce n'era già qualche traccia appunto della battaglia dell'Inghilterra che lei ha così eloquentemente descritto nel suo libro, insomma, di questi schermi. Però credo che la tecnologia, mi pare di capire, abbia avuto un ruolo essenziale. E, prima parlavo di Schwer, mi è venuto in mente nel diario di Schwer che riguarda un po' anche, per esempio, il ruolo, l'atteggiamento di Mussolini nei confronti di Hitler. Cioè, mi pare di percepire, insomma, il fatto che bisogna considerare queste personalità, non le possiamo trascurare. Le memorie di Schwer raccontano di un Rommel che disperatamente andava a passeggiava fuori dalla camera di Hitler, angosciato perché doveva spiegargli come la sua strategia militare fosse completamente sbagliata. Entrava e usciva come trasfigurato, dicendo che Hitler era un grande genio militare, salvo poi ricredersi come risvegliarsi da questa ipnosi. E quindi esistono anche questi aspetti delle relazioni tra Hitler e Mussolini, che in qualche modo mi ricordano queste dinamiche, forse non sono decisive, ma esistono. Un altro elemento che mi pare di capire confermi comunque questa idea di una svolta è forse ancora appunto nella classica memoria di Churchill, come dice, eravamo nel 42 ancora proprio per colpa della guerra dell'Atlantico, che era, si rischiava molto vicino alla sconfitta, da parte dei sovraggiri tedeschi che sembravano invincibili, quindi siamo passati dal rischio della disfatta, ora nel 43 siamo nel rischio del ristagno. E allora praticamente ragione, per arrivare fino al 45 è stato proprio il ristagno, quindi hanno superato il primo rischio, ma non è stato superato il secondo, visto che la Germania di Hitler ha riportato queste incredibili capacità di resistenza. Venendo ai collaborazionismi, comunque molte altre cose, per esempio Casablanca, la resa incondizionata, sembrerebbe che la resa incondizionata sia stato un altro elemento che abbia fatto sì che Hitler non avesse alternative e quindi la disperazione della guerra in qualche modo venisse. Non c'è nulla in mezzo che mettere l'avversario in una condizione nella no-win situation, per cui dopo la sua aggressività si moltiplica fino all'ultimo atto della disperazione. Anche se è estremamente interessante questo riferimento che faceva Monica Ferravanza al questo delirio del 21 aprile, perché ci ricorda quello che si diceva stamattina, il ruolo delle ideologie. Ideologie anche nella loro dimensione irrazionalistica, come in questo caso. Quindi il ruolo delle ideologie riemerge prepotentemente. E concludo il mio sconclusionato intervento ricordando come un altro dei temi che sia emerso, credo sia soprattutto questo un po' il nostro compito, riguarda questa questione dei tecnici, se ne parlava, no? Innervano le esperienze dei collaborazionisti, anche al di là di Cina e anche al di là della Repubblica Sociale. Nel caso italiano in modo molto modesto, nel senso che anche queste figure sono figure minori. Nel caso di Cina un pochino più palese, ma anche qui, siccome appunto le ideologie contano, una cosa, sono parametri della comparazione, in questo caso mi pare che valgano le differenze rispetto alle somiglianze. Una cosa è avviare una collaborazione con la Germania hitleriana quando la Germania hitleriana sembra non avere rivali, quindi ha vinto 40. Quindi i francesi di Vichy, che sono dei fascisti dell'acqua, che si dicono così, convinti, anche tra opportunismi e convinzioni, i quali decidono che questo è lo scenario del millennio, no, se vince, quindi si accorciano ad un vincitore, cosa diversa anche su chiamano le psicologie di massa individuali, acconciarsi ad un potenziale perdente come NS43. Quindi la Repubblica Sociale ha una scelta che anche nelle sue simbologie è molto più a ridosso di una scelta di morte, di sacrificio, di irrazionale, di scelta dell'onore, la fedeltà. Dopo di là non c'è un progetto, c'è appunto la morte del presidente Nico e la morte propria. Quindi c'è questa biforcazione che rende difficile la comparazione tra le due dimensioni, proprio perché nel mezzo del 43, proprio perché c'è in mezzo la storia concreta della guerra che si impone, non possiamo per quanto riguarda i tecnici, un'ultima considerazione. Forse ti sbaglio perché come dire, è un po' una passione mia, però ed è forse un fatto laterale, però sempre gli anni 30 cosa ci restituiscono? Ci restituiscono il quadro di un mondo in cui il libero mercato e la democrazia sono fallimentari. Esiste una strategia di uscita dalla crisi, dalla povertà, che è il militarismo e soprattutto il planismo. Il planismo, addirittura nei commenti più insospettabili, penso a Walter Lippmann, filo svettiano, che interpreta da parte, poi lo abbandona, che dice che è proprio di sinistra, ma Lippmann dice non c'è discussione alcuna che lo scenario del mondo è quello della pianificazione economica e sociale. Bisogna decidere se vogliamo la pianificazione soft o la però sul planismo nessuno discute più. E questo è uno dei temi che viene consegnato insieme appunto all'idea che la democrazia, il liberalismo, il libero mercato siano morenti o già morti senza saperlo, viene consegnato a tutti questi ambienti culturali e vicini, mi pare di capire, la differenza con l'Italia, vive sulle colpe di Bettini. Vive sui gruppi Saragi, gli Scris, che sono deliranti, ma i loro deliri hanno un contenuto che è quello di un nuovo ordine, non importa se europeo. E l'ordine è che tutti questi deliri, a cominciare anche dalla tecnocrazia delle proprie americane degli anni del 32 e 33, sono sempre su scala continentale, mai nazionale. Perché è il continente che ti dà il serbatoio delle risorse energetiche e delle ricchezze su cui puoi. Quindi sono degli ingredienti di carattere culturale, ideologico, minoritari, non voglio enfatizzarli, che serpeggiano. La tecnocrazia è un'ideologia che non è mai nata, non è morta, non esiste uno stato tecnocratico, no? Si evocano così delle cose confuse con questo. Ma nasce proprio in quegli anni, si afferma proprio in quegli anni e ha questi contenuti di planismo, di idea di efficienza, è una sorta che c'è alle spalle, c'è Weber, addirittura si va a Saint-Simon, insomma è un filone culturale che arriva negli anni 30 e si decompone questa idea non più di, chiamiamola di sinistra, come era l'Ottocento, nei primi del Novecento, ma come strumento di lavoro, di governi. Anche filo collaborazionisti, quindi c'è questa specie di eredità. Quindi credo che uno dei suggerimenti che nasce da questa giornata è anche quello di vedere questi strati sociali e intellettuali sotto la dirigenza politica e militare di eccellenza, no? Per capire anche da dove possono essere stati presi alcuni elementi e strumenti di consenso politico. Ecco, molto confusamente questi sono poi i commenti che mi veniva da fare con qualche domanda intramezzata. Io rapidissimamente passerei la parola a voi per fare domande ai relatori. Non abbiamo gelati, ma insomma mettiamo il microfono a lato. Passo la parola. Prego. Ci va bene lo stesso. Benissimo. Paolo. Sarebbe interessante fare una ricerca su questo, come da fare molto di quello che è stato detto, ha mostrato come l'osservatorio Prato Bianco abbia come sottofondo una sorta di diverse Europa, no? E che c'è una storia della violenza, cioè, la Prato Bianco diciamo, sia sempre un'idea di Europa, e c'è soprattutto l'idea di, diciamo, di Europa come inclusione. Fa parte dell'Europa, diciamo, dell'Europa in crisi, del nazionalsocialismo, che si è vogliono salvare, no? E c'è questa cosa che noi si deve trovare a diversi livelli, perciò secondo me insomma, la prima fare una ricerca su questo. Io diciamo, ancora un po' di Grecia e c'ho un versante a che fare sulla Grecia che mostra come cambia l'idea di Grecia, diciamo, la percezione di Grecia. La parte della nazionale socialista tra il 1941 e il 1944. Il 1941 Hitler sostanzialmente ha una forte alienazione dei greci, nonostante diciamo del campo, viene che siamo si chiamava l'Europa, e per questo per esempio decide di liberare il regime di guerra. Fatto Greci, fatto durante la campagna di Balcanza. E faccio mostra come la sfera cambia sostanzialmente con lo sviluppo diciamo, del movimento partigiano, della violenza all'interno della comunità. E come diciamo, questa cosa vale, diciamo, vale insieme a una strategia diciamo, di istruzione dei Greci in Europa. Cioè, vengono diciamo, recuperate le idee, per esempio. Parte del processo di palmeraio, perché i greci moderni avevano continuato a fare molto gli antichi, perché erano stati slavizzati, no? Quindi attraverso diciamo, questi meccanismi culturali, sostanzialmente inclusione dell'Europa, che questo ha a che fare con la storia della libertà, questo secondo me andrebbe forse a studiare qui. E faccio una domanda. Fino a che punto diciamo, queste idee tecnici, non portano di questo tempo, tornano diciamo, in secondo dopoguerra, cioè se c'è una continuità su un prossimo argomento, se ci sono su questo e se diciamo, non c'è qualcosa di questo argomento. Grazie. Altra questione? Salvatore Luca. Allora tutte le vicende dei collaborazioni non sono così pazzesche come sembra. quadro di una vicenda interna del fascismo, che a risale agli anni 30, perché questo tentativo di fascismo, di, come dire, meglio gentile, di totalizzarsi, e l'idea della fascistizzazione è molto forte negli anni 30, sia in guerra per questo, non per altro. Allora, tutti gli aspetti politici di questa vicenda risultano, della vicenda dei collaboratori, e pensiamo solo ai collaborazionismi dell'ex dell'Impero Sovietico, l'Ucraina, il Baltico, cioè, se fossero stati giocati in maniera più efficace, noi sovietici avrebbero perso per autodistruzione. Quindi a me sembra che il nodo del 43, che è un nodo militare, sia anche un nodo politico di prima grandezza nel definire la capacità delle varie forze antifasciste di giocarsela bene politicamente in questa vicenda, e l'incapacità delle forze dell'internazionale fascista di conservare il potere. Perché qua, francamente, prima lo dicevo, detto anche caso che il vicino sia fascista, è una cosa da pazzi, cioè è un tentativo di vedere come si sostanzia questa. Quindi mi pare che qua ci si rimanda molto all'aspetto politico della questione e al fondamento politico e al fondamento politico della forza militare. Che è questo passaggio così rapido, nel 42-43, una guerra che sembrava vincere da base, una guerra che a un certo punto sembra persa, il suo fatto da base. Grazie. Invece si ripongono addirittura in Germania.